Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidissimi, mail, un abuso al giorno @radio24.it, sito della radio, radio24.it. Chi vorrà potrà ovviamente visitarlo, interloquire con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, oggi è la seconda puntata che dedichiamo alla libertà di informazione e di stampa in Calabria, che a mio giudizio, l'ho detto e scritto non so ormai più quante volte, è estremamente irregimentata e parziale, parzialissima, direi, salvo poche voci libere, quasi del tutto inesistente. Qual è lo spunto che mi ha fatto fare queste due puntate? La chiusura, la cancellazione, il cambio di programma, di palinsesto, chiamiamolo come vogliamo, del programma Perfidia, molto seguito su Telespazio Calabria. La sua conduttrice, Antonella Grippo, si è vista quasi dall'oggi al domani senza mezzi, senza risorse, senza possibilità di andare avanti. Abbiamo cercato, come facciamo sempre, la controparte, vale a dire il direttore responsabile ed editore di Telespazio Calabria, vive a New York, Tony Boemi Junior. Lo abbiamo tempestato di chiamate e mail, ma non abbiamo avuto l'onore e l'onere di parlare con lui. Allora, oggi seconda puntata e partiamo da una domanda in sospeso che abbiamo fatto ieri ad Antonella Grippo. Intanto buongiorno Antonella. Buongiorno Roberto, ben trovato. Ben trovato a te, che è la giornalista e conduttrice appunto di questa trasmissione. E prima di continuare con lei do il buongiorno all'onorevole Doris Lomoro, deputato del PD, ex sindaco di Lamezia Terme. Buongiorno Lomoro. Buongiorno. E al collega Vinicio Leonetti, amico fraterno, capo servizio della Gazzetta del Sud, ha girato tutta la Calabria e oggi si trova a Lamezia Terme. Ciao Vinicio. Ciao Roberto, buongiorno a tutti. Allora io mi permetto di dare del tu ai colleghi giornalisti e questo è il motivo per il quale sentite dare del tu a quelli che sono colleghi. Allora, Antonella, ieri tu hai lasciato una frase in sospeso, hai detto io un'idea ce l'ho per che hanno chiuso la mia trasmissione. Prego, dilla pure. Ti dicevo della progressiva spoliazione tecnica del programma, sì, no? Che è già stata una prima avvisaglia. Dopodiché lunedì sera la puntata era dedicata al commento, all'approfondimento circa i risultati elettorali, io sono stata ridotta al rango di televisione proprio paesana con una telecamera fissa. Ho reagito in diretta e ho detto va bene, così non si può andare avanti, Perfidia tornerà solo se potrà disporre della sua tradizionale effervescenza, no? Anche sì, sul piano delle immagini. Rispetto a questa mia reazione si è decisa la soppressione della trasmissione. L'idea mia è che si sia voluto dedicare un tributo di sangue ai nuovi padroni del vapore senza che questi ultimi lo abbiano richiesto, nel senso, secondo me la qualcuno è stato più realista del re, insomma qualcuno è più realista del re e per un eccesso di zelo si è voluto offrire la testa di San Giovanni Battista a Salomè, laddove non c'era neanche il capriccio di Salomè, non c'è mai stata una richiesta esplicita dei nuovi padroni del vapore a che Perfidia morisse. Ma appunto chi è più realista del re se l'è voluto ingraziare, ha detto ecco questa è la testa di Perfidia, la mia opinione è proprio questa. Benissimo, allora ci sarebbe tanto piaciuto confrontarla con quella dell'editore, ma ripeto ancora una volta, è stato impossibile, ma i nostri microfoni sono aperti per Tony Boemi Junior. Allora, onorevole Lomoro, abbiamo sentito ieri di un appoggio bipartisan alla solidarietà, nella solidarietà per la chiusura di questa trasmissione. Ieri l'onorevole Angela Napoli, finiana, doc, comunque assolutamente di centrodestra, oggi lei deputato del PD. Ci spieghi che cosa viene a mancare in Calabria con la chiusura di questa voce, con il bavaglio a questa voce? Guardi, la trasmissione è condotta da Antonella Grippo, che è una donna, è una giornalista intelligente, ma anche e soprattutto colta. Era una trasmissione difficile anche per chi partecipava alla trasmissione, perché si tratta di una Antonella Grippo ha una forte personalità, è una persona assolutamente libera, e avere una forte personalità significa anche che, siccome tra l'altro è una trasmissione che stava sulle notizie di giornata, significa anche delle volte essere aggressivi sulle notizie, essere come dire perfidi, come dice la trasmissione, il titolo della trasmissione, ma soprattutto essere capaci, avere voglia di arrivare alla notizia comunque, quindi indagare, non lasciare nulla di intentato. Una trasmissione difficile, io sono stata più volte ospite di Antonella Grippo, una trasmissione in cui anche un politico avveduto si trovava anche nella necessità di attrezzarsi, di essere attento, perché tra l'altro la trasmissione durava abbastanza, Antonella è instancabile. Certo. E so che era molto seguita, perché più volte sono stata anche coinvolta in discussioni attorno a questa trasmissione. Quello che è venuto a mancare è dunque la trasmissione colta e assolutamente libera. Allora, la domanda è come mai un editore che vive fuori, che probabilmente segue poco, purtroppo per lui anche le sorti di una televisione che tra l'altro è notoriamente in difficoltà, spegne l'unica voce o una delle voci che teneva accesa e viva quella rete. Certo, è una domanda a cui avremmo voluto avere una risposta anche noi. Allora, io mi rivolgo più che ai radioascoltatori, ai lettori del Sole 24 Ore e del mio blog. Sapete che come inviato speciale del Sole non so quante inchieste ho fatto sulla Calabria, e per me esiste un punto fisso e fermo in quella terra, uno dei pochissimi giornalisti di cui mi fido, e quel giornalista si chiama Vinicio Leonetti, una persona straordinaria, una persona che ha girato tutta la Calabria. Quando ho bisogno di confrontarmi su quella terra, Vinicio è una voce libera con la quale io mi confronto. Allora, Vinicio, ma perché questa terra è così disgraziata e la libertà di stampa è così difficile da affermare? Perché si spengono voci e perché, santo Iddio, non si fanno quelle inchieste che invece vengono delegate fuori ai giornalisti di altri giornali? Abbiamo sentito nominare i nuovi padroni della vaporiera, voglio dire, sappiamo tutti a chi ci riferiamo, al nuovo governatore Scopelliti, che porta in giunta 5, forse 6 ex assessori che erano con Chiara Vallotti. Quindi in Calabria cambia tutto, ma in realtà non cambia mai nulla. Allora, Vinicio, perché è così difficile la libertà di stampa e di informazione nella tua terra? Ma l'informazione da queste parti è ancora molto provinciale, molto legata al cappello in mano e alla richiesta al politico di turno. Per cui è chiaro che molti colleghi sono diciamo così trincerati in questa posizione e non si muovono di un millimetro. Poi c'è pure da considerare che gli editori non ce ne sono pochissimi puri, nel senso che ci sono editori che sono di estrazione assolutamente lontana da quella che può essere, diciamo così, l'informazione. Ci sono editori che hanno delle cliniche private, altri che producono manufatti alimentari, cioè gente che alcuni addirittura riciclano rifiuti, per cui credo che il problema dell'informazione in Calabria sia da ricondurre a diversi fattori, tra cui quello appunto delle commistioni tra interessi privati ed interessi che poi sfociano in una TV, in una giornale, insomma in un media, e poi quella che inevitabilmente non può essere una libera informazione, perché quando troppi interessi si intrecciano, libera informazione non può esserci. Sbaglio, Vinicio, se affermo questo? Sicuramente il problema è fare solo informazione e basta, se poi si va oltre si finisce con l'esercizio del potere. Assolutamente. Attenzione, radioascoltatori, questo è un tema che vale per tutta Italia. In questo momento l'informazione, che ne dicano i cultori della materia avversi, la libertà di informazione è in gravissimo rischio in questo paese, ha gravissimi problemi purtroppo nell'esplicarsi in tutta la sua forza. Sono troppe le pressioni, sono troppe le avversità, è inutile nascondersi dietro un dito. Ogni voce che scompare, lo ripeto ancora una volta e lo dico perché Così ringrazio anche i miei ospiti, Antonella Grippo, giornalista e conduttrice della trasmissione per figli a chiusa su Telespazio Calabria, alla quale auguro di tornare nuovamente in video e in voce. Doris Lomoro, deputato PD, e Vinicio Leonetti, giornalista della Gazzetta del Sud. Ogni voce che si spegne è una sconfitta per la democrazia. Quindi torneremo sui temi dell'informazione, lo sapete, l'abbiamo fatto nel passato moltissime volte, ogni qualvolta c'è stata l'occasione. E qui, credetemi, in Calabria, dove l'informazione libera è una rarità, ne valeva davvero la pena. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.